Buongiorno, sono Mario Sabatino. Oggi è il 21 di marzo del 2011. Queste sono le mie istruzioni per l'uso e vi parlerò di condominio e privacy. Vi invito a visitare il sito all'indirizzo www.studiosabatino.eu. Il fatto di questa mattina si presenta molto frequentemente. L'amministratore di condominio affigge in bacheca l'elenco dei condomini morosi. La bacheca si trova nell'androne di accesso allo stabile ed è quindi consultabile anche da persone estranee al condominio. La Cassazione, con sentenza numero 186 del gennaio 2011, ha deciso sul punto, affermando che la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali aperti all'accesso a terzi estranei al condominio possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino. Pertanto, fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale, l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale da parte dell'amministratore dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile. Pertanto, amministratori di condominio, fate attenzione, non dovete affiggere la lista, l'elenco dei condomini morosi, perché tale condotta sarebbe illecita e fonte di responsabilità civile. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.